bagnare i ponti e le città. E le strade si allargano come grandi pianure tra la gente che piange la sua pazzia. Cammina, ti vede, passa e pensa.